Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. C'erano contratti una volta, soprattutto nel mondo contadino, che si facevano semplicemente con stretta di mano e si basavano evidentemente sulla fiducia e sull'affidabilità delle persone. Poi il mondo si è complicato, sono nati anche giustamente i contratti scritti nero su bianco. Sono arrivati poi qualche anno fa anche i contratti telefonici in cui la telefonata viene registrata e se si dice sì a tutte le domande il contratto era sottoscritto, però non sarà più così per questa tipologia. Vediamo alcune importanti novità che stanno per entrare in vigore col presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è una novità che finalmente va a favore degli acquirenti, dei contribuenti che magari volenti o a volte nolenti si trovano a sottoscrivere dei contratti. Spesso si è trattato di truffe, ne abbiamo raccontato più volte. Che cosa ha deciso pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri? Sì, finalmente sono state tenute in considerazione un po' tutte le proposte che l'Associazione dei Consumatori in questi anni hanno sempre cercato di portare avanti in tutte le occasioni e questa volta a imporre le richieste delle associazioni dei consumatori è stata la Comunità Europea che, come hai detto tu, ha imposto al Consiglio dei Ministri l'altro giorno ad approvare quelle che sono delle importanti direttive europee sulla tutela dei consumatori che entreranno in vigore il 14 luglio 2014, che riguarderanno sostanzialmente tutti i contratti di fornitura stipulati telefonicamente e tutti gli acquisti online. Quindi si parlerà di forme di esercitare il diritto di ricesso diverse rispetto a quelle di adesso, sottoscrizioni diverse di contratti rispetto a quelle di una volta, e soprattutto meno trappole anche su istituti compresi, che non si capisce mai poi in realtà cosa è compreso e cosa no. Allora, andiamo punto per punto. Dicevo, non basterà più nei contratti sottoscritti al telefono dire sì, sì, sono d'accordo, sì, sì, sono d'accordo, ma torna anche la firma nero su bianco con la penna e la biro. Sì, allora, come dicevi, fino ad oggi, e probabilmente lo sarà fino al 14 giugno 2014, l'obiettivo del call center era quello sempre di farti strappare un sì per telefono per poi propinarti un contratto o un bene che magari in realtà alla fine scopriamo che per più delle volte era stato fatto anche con incanto. Ma perché un contratto diventi valido, quindi e si dovrà confermare per iscritto l'offerta su un contratto che ne riporta le condizioni per iscritto. Quindi cosa vuol dire? Che al di là di quello che può essere contratto telefonico, io devo ricevere il contratto scritto e lo devo anche poter firmare. Leggere interamente, firmare e restituire. Certamente. E sempre parlando di contratti telefonici, quindi sarà obbligatorio, come hai detto, la firma, però è anche è importante sapere che conseguentemente a questa nuova disposizione il diritto di ripensamento salirà da 10 a 14 giorni. Quindi anche qui vuol dire che il diritto di ripensamento una persona avrà più tempo per farlo valere. E ricordiamo, Mirko, che il diritto di ripensamento non si applicano per i beni acquistati presso i centri commerciali, ma continuiamo a ripetere per quelli sottoscritti a livello telefonicamente oppure tramite online. Da 10 a 14 giorni, dunque 4 giorni in più per quanto riguarda i contratti telefonici, finestre diverse e ancora più ampie per l'online, soprattutto se non vengono esplicitati questi 14 giorni. Sì, praticamente oggi come funzionava? Se i contratti non recavano la dicitura precisa che avevi diritto a 10 giorni di ripensamento, che da 14 giugno diventeranno 14 anziché 10, il ripensamento viene innalzato automaticamente a 12 mesi. Quindi cosa vuol dire? Che in presenza di un contratto che presenta delle clausole vessatorie, consumatore deve sapere che per gli acquisti avvenuti fuori da esercizi commerciali c'è tempo un anno per poter restituire bene e richiedere i soldi indietro. Bene, anche questo un passo avanti. Nel caso non fossero dei contratti per acquisti appunto o per gas, energia, telefonia, ma uno comprasse degli oggetti, se l'oggetto arrivasse danneggiato? Ecco, anche qui importante novità, perché viene definito una volta per tutte che la responsabilità dell'oggetto acquistato sarà interamente a carico del venditore finché questo non sarà consegnato. Quindi se oggi ci troviamo di fronte a queste a situazioni in cui i venditori cercano sempre di incolpare i viaggiatori, i corrieri e viceversa, una volta per tutte viene fatta chiarezza e viene stabilito che la responsabilità unica è del venditore. Quindi in qualsiasi caso un oggetto smarrito o danneggiato ne risponderà esclusivamente il venditore. Nel caso si avesse diritto al rimborso invece? Anche qui, se ad oggi la normativa prevedeva che entro 30 giorni il venditore deve restituire i soldi, oggi i giorni diventano 14, per cui un altro passetto molto importante, insomma. Ultima cosa, i call center, che sono importanti perché fanno un servizio di assistenza, di informazione, ma non sempre le chiamate sono gratis. Sì, per sempre viene definito che i call center dovranno essere gratuiti e l'assistenza telefonica non potrà più addebitare nessun costo rispetto ai costi di una telefonata normale. E una cosa anche molto importante è che sia nei siti che nei contratti ci deve essere spiegato in maniera molto semplice e intuitivo tutti quelli che sono i riferimenti del venditore e fare in modo che lo stesso possa venire contattato con molta chiarezza e facilità. Sono argomenti su cui, insomma, ci fa piacere che l'Europa sia intervenuta, perché toccano anche la vita quotidiana di tante persone. Ricordiamo che questa normativa recepita dall'Italia entrerà in vigore in tutta l'Unione Europea il prossimo 14 giugno. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, ci ritroviamo la settimana prossima con altri due argomenti. Buon proseguimento. Grazie Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.